Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:07, buona domenica da Stefano Gallarini. Avete dormito più un'ora in più questa notte, per cui sarete belli svegli, belli pimpanti. Vi voglio così perché oggi bisogna avere molta energia, visto l'argomento della giornata del riposo del guerriero, che non vi anticipo subito, ma come sempre vi anticipo il numero verde, perché anche oggi giocheremo alle 11:35 circa con Miro in 24 minuti. Per voi la possibilità di portarvi a casa il biglietto d'ingresso della mostra a Genova e il bellissimo catalogo dell'artista surrealista. Il numero verde per partecipare è 800 24 00 24. La meccanica del gioco è la stessa di sempre, ovvero quella dell'ascolto di un indizio musicale che vi porta a pensare a una delle opere di Miro. Sentiamo la prima opera da indovinare. Sembra che non ci sia. Questo è il primo indizio, ovvero la canzone che vi porterà a pensare al primo quadro da indovinare di Miro. Si gioca 11:35, chi dovesse indovinare appunto l'opera si porterà a casa catalogo e biglietto d'ingresso alla mostra Genova. Il numero verde 800 24 00 24. Oggi parliamo invece, per quanto riguarda il riposo del guerriero, di un personaggio che è entrato nel, io direi un po' nel cuore, nell'anima di tutti, un po' vorremmo essere come lui, ed è James Bond. Oggi quindi parliamo dell'agente 007, del suo fascino, del perché è così affascinante, degli attori che l'hanno interpretato al cinema e che sono cambiati. Qual è quello che vi piace di più? Qual è, ce n'è uno completamente dimenticato di cui non ricordo mai il nome, ma avremo modo. Hai il microfono chiuso, per cui non ti sentiamo. Andrea Carlo Cappi, ciao. No, ti apriamo noi adesso di qua. Okay, allora, perché non ti avevo ancora coinvolto, quindi ecco. No, ero clandestinamente, che comunque il nome era Lazenby, George Lazenby, che non sono io sono Cappi, Andrea Carlo Cappi. Sì, scusami, no, ma è l'attore... L'attore di, che non ricordavo. E di quel film che non ho mai visto, che è... Bellissimo, che è Al servizio segreto di sua maestà. Ma bellissima una battuta. No, è un bellissimo, è un bellissimo film. L'attore è un po' meno bello, ma perché non è Sean Connery fondamentalmente, certo. Ma il film è bellissimo, una splendida sceneggiatura da un grandissimo romanzo. Ecco, avrete capito che Andrea Carlo Cappi è l'ospite di oggi, ormai ti sei autopresentato. Con la forza. È perché non ce l'ha fatta, io ho fatto quella domanda, non poteva non rispondere, perché ovviamente è preparatissimo sul personaggio. Vorrei sapere anche da voi che cosa vi stimola il pensiero di 007, se proprio guardando i suoi film hanno cominciato ad affascinarvi anche i film di spionaggio, i film d'azione, se gli attori vi sono piaciuti in qualche modo, se da piccoli vi siete comprati tutti i gadget possibili, da DB5 con tutti i suoi... Io me li compro ancora adesso. Lo fai, dopo ne parliamo sicuramente, magari anche in onda. E per cominciare la puntata ovviamente non possiamo che non partire con Skyfall. Può mancare, devo dire che l'arrangiamento è perfetto, James Bondiano al 100%. Sì, molto in stile John Barry, il classico autore della maggior parte delle colonne sonore storiche di James Bond. Ecco, tu dicevi che addirittura questa è Adele, e tu dicevi che tu la Shirley Bassey avrebbe potuto cantare una canzone del genere. Sì, è ovviamente molto vicino allo stile classico di canzoni come Goldfinger, Diamonds Are Forever, cioè i grandi cavalli di battaglia dell'era Connery, quelli che hanno costruito il mito cinematografico di James Bond. Ecco, siamo tornati un po' al passato e ci mancava da questo punto di vista. Gli aggiornamenti sul traffico e poi entriamo nel vivo dell'agente segreto più famoso indubbiamente del mondo. Il riposo del guerriero. Ecco, posso dire una cosa che da qualche settimana, da quando è stato nostro ospite per raccontarci Principi e Principesse, avendo pubblicato un saggio uscito da pochissimo, Grace Kelly, la principessa di ghiaccio, Andrea Carlo Cappi sarà ospite ufficiale costante del Riposo del Guerriero. No, sarà perché, un piacere. No, è che per me soprattutto e sicuramente anche per gli ascoltatori, perché tu hai tradotto, scritto, fatto, fai attualmente talmente tante cose, ti occupi di tanti personaggi che sei da invitare in continuazione, perché ogni pensiero che abbiamo su un argomento c'è Andrea Carlo Cappi. Beh, allora ti lancio una proposta. Fra pochi giorni c'è anche il cinquantennale di Diabolik. Va bene, un altro personaggio che fa discutere sicuramente. Oggi parliamo di 007 con te per tanti motivi. Allora, tu sei stato il traduttore ufficiale dei romanzi che sono stati scritti dopo la morte di Ian Fleming. Sì, dalla fine del periodo di John Gardner a tutto il periodo di Raymond Benson, che poi è stato l'ultimo periodo in cui c'è stata l'abitudine di far uscire un nuovo romanzo inedito di James Bond all'anno, qualche volta addirittura due. Adesso le regole sono un po' cambiate. La Ian Fleming Publication, che è l'organizzazione fondata dallo stesso Ian Fleming prima di morire, che detiene i diritti letterari del personaggio, ha deciso di far pubblicare soltanto un romanzo ogni due o tre anni, cambiando ogni volta l'autore. L'ultimo è stato un mio amico di nome Jeffrey Deaver, che però non hanno fatto tradurre a me, chissà come mai. Senti, com'è nata questa... Il fatto che tu comunque fossi stato per tantissimi anni, l'elenco è molto lungo, il traduttore ufficiale, è semplicemente per un'amicizia con l'autore oppure perché sei un grande appassionato del personaggio? No, in realtà io ho cominciato con John Gardner e sono diventato amico di Raymond Benson a posteriori, perché lui era l'autore ufficiale per un lungo periodo, è stato secondo me il miglior scrittore di James Bond dopo lo stesso Ian Fleming, opinione condivisa praticamente da tutto il mondo. No, in realtà il mio legame con James Bond è nato quando ero nel settimo, anzi nello 007 anno d'età, e mi hanno portato a vedere Licenza di uccidere. E da lì è partito un interesse che si è esteso a tutto il mondo del thriller, che ha fatto di me uno scrittore di romanzi, ma anche un appassionato di cinema, anche un appassionato di vere storie di spionaggio, a cui ho dedicato un altro mio libro, per cui diciamo mi si è creato un mondo in cui James Bond ha avuto sempre un posto d'onore. Quindi ho letto tutti i libri, ho visto più volte tutti i film, e a un certo punto, quando la Mondadori stava pubblicando la serie di John Gardner di 007, praticamente con la forza mi sono preso il compito di tradurre la serie, perché non ero d'accordo sullo stile adottato dal precedente si traduttore. Si fa così di solito. Io ho detto, così si traducono i libri di 007, questo deve essere il linguaggio. E da lì, misteriosamente, ho cominciato anche a firmare autografi per le traduzioni, perché i fan di James Bond sono così appassionati che persino un traduttore, poi negli anni sono diventato persino editore di James Bond, ma persino un traduttore assume una, diciamo, brilla di una luce riflessa bondiana. Ecco, senti, Andrea, cominciamo a parlare del personaggio e quanto si discosta quello voluto e raccontato da Ian Fleming a quello che abbiamo conosciuto al cinema, iniziando ovviamente da Sean Connery, perché è stato il primo che l'ha interpretato. C'è una differenza fondamentale tra il Bond che in fondo conoscono tutti, e quello più famoso, che è appunto quello di Connery, e il Bond originale. Il Bond di Connery l'abbiamo visto negli anni 60 ed era un uomo degli anni 60 che rifletteva certamente il gusto della vita, del lusso, del jet set, di cui non faceva parte ma con cui spesso si trovava a interagire in grandi alberghi, bevendo champagne, incontrando donne bellissime con vestiti firmati e via dicendo. Un pochino al di sopra di quello che normalmente potrebbe vivere un funzionario statale britannico. Ma in tutto questo c'era una dose maggiore di cinismo. Sean Connery faceva uno 007 più spietato, che uccideva gli avversari con una battuta, tipo quando c'è il tipo che finisce nella vasca da bagno all'inizio di Goldfinger e viene folgorato da una scossa elettrica quando Bond getta un ventilatore. Nella versione originale Bond commenta "shocking, positively shocking", che vuol dire un vero shock. Però il doppio senso, ovviamente. Esatto, in italiano era tradotto ridicolo, assolutamente ridicolo. Però in ogni caso c'era questo Bond che sorrideva intanto che uccideva, mentre Nella scena equivalente del romanzo Goldfinger, Bond è all'aeroporto con un doppio Bourbon che sta pensando al fatto che ha appena ucciso questo povero disgraziato e la cosa non gli piace. Quindi due mondi completamente diversi. Il Bond cinematografico molto più libero e nonchalant sia con le donne sia con la sua Walter PPK, e il Bond dei romanzi invece che è molto duro, molto cinico nel suo mestiere, ma estremamente tormentato, soffre molto. Quando in un film di 007 di Connery viene uccisa una delle ragazze, mediamente ne capita almeno una film di vittima sacrificale, Bond Connery inarcava un sopracciglio, mentre il Bond di Fleming faceva finta di nulla al momento, ma poi dopo, ancora dopo altri libri, continuava a ripensare a quella donna che gli era morta tra le braccia. Quindi il vero Bond è un uomo molto tormentato, con una rabbia fredda che gli brucia dentro, e che abbiamo invece finalmente visto incarnato nell'interpretazione di Daniel Craig dal 2006 a oggi. Ecco, a proposito, ti avrei fatto la domanda: qual è tra tutti gli attori quello che in qualche modo ti piace di più per una questione appunto di atteggiamento, di più rappresentativo? Un po' hai risposto adesso, forse Daniel Craig. Sì, anche diciamo se non che ha il proprio la faccia più bondiana, nel senso che è più vicino al personaggio dello scrittore o più lontano? Allora, fisicamente sì, è più vicino Connery, nel senso che è bruno, anche se Connery ha gli occhi scuri anziché azzurri, anzi di ghiaccio come dovrebbe averli Bond. Però da un altro punto di vista è molto più vicino Craig, perché James Bond non deve essere bello, quindi non assomiglia a Roger Moore piuttosto che a Pierce Brosnan. Bond ha il fascino dell'uomo duro, del combattente, del guerriero, visto che siamo al riposo, sì, del guerriero, ma non è propriamente bello, addirittura non è stato mai fatto nei film, ma nei romanzi viene descritto con una cicatrice di alcuni centimetri, mi pare 4 centimetri sulla guancia destra, che sicuramente gli dà un fascino piratesco, ma non è esattamente un neo di bellezza. Tra l'altro è britannico Daniel Craig, quindi curiosamente anche quello più vicino al personaggio. Beh, ma tutti gli attori, tranne George Lazenby, che è quello che non ricordavi. Perché però uno è scozzese, l'altro è gallese, per cui... Sì, ma in realtà sono tutti britannici, tranne appunto Lazenby che era australiano, ma anche per una questione di accento. Devono tutti avere un certo tipo di pronuncia. Beh, Connery aveva un marcato accento scozzese, certo, che è passato alla storia e ovviamente non si sente nella versione doppiata di Pino Locchi, perché poi nel doppiaggio Roger Moore, George Lazenby e Sean Connery avevano tutti la stessa voce. Ma c'è questa questione di base. Va sottolineato che in realtà Bond è di origine scozzese. Ah, quindi sarebbe più giusto Sean Connery. Sì, come del resto era di origine scozzese lo stesso Fleming, che veniva da un'antica famiglia di Highlanders, non nel senso di immortali, ma nel senso delle Highlands. E tra l'altro le origini scozzesi di James Bond in Skyfall sono molto sottolineate, vedremo addirittura il luogo d'origine di 007. Poi ne parleremo anche ovviamente, visto il film, e deve uscire ancora in Italia, forse settimana prossima. Sì, è stato esce la sera di Halloween, ed è curiosamente, quando si vedranno i titoli, un film che ha qualche gusto alla Halloween. Maria Rosa Mancuso, buona domenica. Ciao Maria Rosa. Buona domenica. Critico cinematografico, scrive per Il Foglio, e a te invece, siccome sei una donna, chiedo di raccontarci dal tuo punto di vista, sia da un punto di vista proprio estetico, se vuoi, ma anche ovviamente legati al personaggio, degli attori che hanno caratterizzato James Bond. Hai sentito anche Andrea Carlo Cappi cosa ha detto, volevo sapere se tu ti trovassi d'accordo o meno. Io mi infurio sempre quando sento dire che Daniel Craig non è bello, ma non nel senso convenzionale. Daniel Craig, voglio dire, è bellissimo, oltre che un Bond, secondo me, perfetto. È biondo, questo gliel'hanno rimproverato all'inizio, quando Barbara Broccoli, la figlia del primo produttore, lo ha scelto, lo ha fortemente voluto, e l'ho anche fortemente voluto con la motivazione che bisognava cambiare. Pierce Brosnan apparteneva a un'epoca ormai precedente e quindi bisognava passare a qualcuno di più moderno. Io sfido qualunque attore che abbia fatto James Bond, anche il mitico Sean Connery, a fare la scena che fa Daniel Craig quando si ritira triste nella doccia con ancora la camicia e il granatino dello smoking assieme a Eva Green. Io credo che a Sean Connery non sarebbe mai riuscito. Gli si sarebbe staccato il parrucchino. Questo sicuramente è stato quel problema. Gli si sarebbe staccato il parrucchino che portava alla non veneranda età di anni 32. E comunque quando fu scritturato Sean Connery il commento fu: che disastro. Che disastro, perché anche Fleming aveva in mente un personaggio più alla Cary Grant, che però non poteva fare tecnicamente e muscolarmente quella parte, e l'altra alternativa era Roger Moore, che poi sarà più avanti l'interprete. Ecco. L'interprete. Tutta una storia, tra l'altro, anche abbastanza divertente, di attori che vengono scelti e che poi diventano Bond con ritardo, perché un altro che è diventato Bond con ritardo è Pierce Brosnan, che era stato scelto per fare il film che poi andò a Timothy Dalton, ma stava facendo una serie televisiva e niente, fu costretto a ritirarsi. Fu una grande delusione, anche lui racconta di aver visto dopo la rinuncia, aveva già fatto le foto con la pistola e tutto quanto, si era già preparato mentalmente a dire sono Bond, James Bond, che è la frase che terrorizza tutti gli attori, e però con ritardo poi riuscì anche lui a fare il suo Bond. Ecco Maria Rosa, abbiamo un minuto, volevo velocemente che tu caratterizzassi gli attori con un aggettivo. Secondo te cosa hanno avuto di particolare partendo da Sean Connery? Beh, Sean Connery la sfacciataggine, sicuramente. George Lazenby, che fece un solo Bond, sì, era quello proprio fuori tempo, perché lo fece perché gli piaceva tanto James Bond, e poi si presentò la prima con la barba e i capelli lunghi. Insomma, fu un disastro. Roger Moore è l'ironia, direi. Timothy Dalton è il James Bond cattivo, crudele. Sì. Pierce Brosnan è l'improbabile, perché gli fecero fare di tutto, anche il kitesurfing in un tsunami. E Daniel Craig, secondo me, è insomma l'ideale. Ecco, cioè, chiudiamo il cerchio e siamo partiti all'inizio. Il meglio, cioè questo volevi dire. Il meglio, certo. Grazie Maria Rosa Mancuso, ti leggiamo sul foglio, buona domenica. Grazie a voi e buona domenica. Grazie, ci fermiamo con la pubblicità qualche minuto e poi torniamo a parlare di James Bond. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi, perché vogliamo capire anche che cosa rappresenta per voi, se l'ha rappresentato o tuttora lo fa, il personaggio. 349-238-6666. Il riposo del guerriero. Bacino dello spionaggio oggi nel riposo del guerriero. Ovviamente parliamo di 007, che è l'agente segreto per antonomasia, con una frase che bisogna saper dire, questa. E io ammiro la sua fortuna, Mr. Bond. James Bond. Bisognerebbe andare in giro con tipo l'MP3 e come dici il nome fai sentire il jingle e poi vai avanti. Perché è così difficile da dire sta frase? Non lo so, io la dico di continuo. Ecco, vedi, pronto. Solo che io non sono Bond, James Bond. Ma a te viene, perché hai un po' questa voce? Sì, è dall'età di 6-7 anni che la sento ripetere in italiano, in lingua originale, qualche volta anche in spagnolo, una volta persino in catalano. Quindi. Senti, c'è un'altra frase molto famosa di 007, quando le prese con qualcosa, siccome tanto lui è sempre ai party, dappertutto. È ovviamente una questione di lavoro. Esatto, lo deve fare impegni per quello. Impegni aziendali. Esatto, quindi appunto le prese con belle donne, con le quali chiaramente si beve qualcosa, oppure se deve parlare d'affari con qualcuno ovviamente si beve. E di solito la sua bevanda preferita è questa. Can I do something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. Ecco, allora, il martini che deve essere mescolato, non, agitato non mescolato. Non mescolato. In realtà questa è una sorta di dogma che appare nei film, è diventato un tormentone, ripetuto qualche volta addirittura confuso, in Si vive solo due volte, Bond accetta con nonchalance un mescolato non agitato. È sicuramente una delle bevande predilette di Bond, ma Bond in realtà non beve solo vodka martini, beve di tutto, dalla birra, tanto vituperata, ma beve anche la birra, preferibilmente in bottiglia. All'immancabile champagne. All'immancabile champagne, ma pare da statistiche fatte da chi ha letto i libri che la bevanda che Bond abbia bevuto di più in tutta la sua vita sia stato il whisky. Solo che quello probabilmente lo beve in privato, anzi no, nel nuovo film viene ipotizzata anche la marca prediletta di whisky di James Bond. Ecco, poi appunto, ecco perché non abbiamo ancora parlato del nuovo film, perché poi lo farà la Rosa Purpura la settimana prossima, però qualche anticipazione ve la diamo sicuramente, visto che anche lei è andato a vederlo al cinema. Ecco, su questo fatto del martini, agitato non mescolato, c'è una curiosa battuta da Casino Royale, sentiamola. Un vodka martini. Agitato o mescolato? Che vuole che me ne freghi. Perché? Cioè, perché hanno poi preso in giro, si sono autopresi in giro? Sì, in questa nuova serie con Daniel Craig molto spesso frasi o situazioni dei film precedenti, dei classici, vengono un po' ribaltate con una strizzata d'occhio nei confronti degli spettatori. In quel momento però Bond non era dell'umore adatto per pensare alle differenze del martini. In quel momento voleva qualcosa di forte. Tra l'altro in Casino Royale lui inaugura un cocktail che poi ribeve in Quantum of Solace, che è preso direttamente dal Casino Royale romanzo di Fleming, che è il Vesper, che è una variante del martini che richiede tra gli ingredienti la china Lillé, che non è di facile reperimento, si trova giusto al bar del Admiral, che è e dopo qualcosa ne parliamo, di cui poi parleremo dopo. Sì, abbiamo come nostro ospite anche Edward Cofrini dell'Orto, ma volevo chiederti, fra tutti i film, i romanzi sono tantissimi ovviamente, ma fra tutti i film qual è il tuo preferito? Goldfinger anche per te? No, Goldfinger no, anche perché l'ho visto tardivamente, quando avevo già un certo occhio e ho notato tutte le sviste di sceneggiatura. Lentissimo, esatto. No, il ritmo è perfetto. Ah, ci piace. Sono delle sviste di sceneggiatura e io sono molto severo, avendo fatto anche l'editor, sono molto severo sulla coerenza delle trame. Fino a qualche anno fa avrei detto Dalla Russia con amore, sì, che era forse il film più fedele al romanzo, con la scelta di interpreti più riuscita, con un tocco hitchcockiano nella realizzazione. Quando è uscito il Casino Royale con Daniel Craig, ho cominciato a essere dubbioso sulla scelta del miglior film di Bond, perché Casino Royale, secondo me, è il miglior incontro tra il Bond dei romanzi e il Bond a cui è stato abituato cinematograficamente il pubblico di tutto il mondo. Skyfall si piazza sicuramente in una delle primissime posizioni, molto vicino a Casino Royale. Quindi abbiamo atteso per molti anni, però ne è valsa la pena Skyfall. Sì, certamente. Enrico Groppari, ciao, buona domenica. Ciao a te, come stai? Bene, bene. Allora, noi ti vogliamo coinvolgere questa volta, visto che, insomma, tu ne sai, e per quanto riguarda le donne, perché le Bond Girl sono diventate famose tanto quanto gli attori che hanno interpretato 007, e volevamo sentire da te qualche racconto che riguardasse forse la più affascinante, le più famose. Dunque... Le più affascinanti sono state indubbiamente le prime due. Come si fa a dimenticare Ursula Andress, che appare dal mare come una specie di Venere in due pezzi, nel primo film della serie è rimasto mitico agente 007, licenza di uccidere. E divenne famosa proprio per quello. Dopo essere stato, dopo avere vegetato per anni, diciamo, nei sobborghi di Hollywood ed essere notata più che altro per la sua amicizia con il defunto James Dean, e poi per il suo matrimonio con John Derek. Ma poi c'è stata anche la rivelazione, durata purtroppo un solo film, di Daniela Bianchi in Agente 007 Dalla Russia con amore, e seguita da Pussy Galore, Honor Blackman in Goldfinger, da Jill St. John, famosa nelle cronache per essere stata una delle mogli di Reventlow, il figlio di Barbara Hutton, Shirley Eaton, che anche lei fece una parte principale in un altro 007, che era sempre in Goldfinger. E poi come si fa a dimenticare le voci, anche non le Bond Girl, ma le voci femminili che hanno accompagnato i film di Bond, come Shirley Bassey, che ha cantato, sì, la famosa canzone di Goldfinger, e nel 65 Nancy Sinatra con You Only Live Twice, One Life for Yourself and One for Your Dreams, che è rimasta famosa nel mondo dopo These Boots Are Made for Walking. L'unico grande hit discografico di Nancy Sinatra è stato proprio la canzone che ha accompagnato il film Si vive solo due volte. È vero però che le Bond Girl sono apparse praticamente in un solo film, non hanno fatto una grande carriera, tranne la francese Claudine Auger in Agente 007 Thunderbolt, Operazione Tuono, che abbiamo trovato poi in altri film, sia italiani sia francesi. È stata tra l'altro la protagonista di un film che aveva avuto un grande successo in Francia e poco in Italia, intitolato Un po' di sole nell'acqua gelida, tratto da un romanzo di Françoise Sagan. Ma al di là delle Bond Girl, lasciatemi fare il nome invece di una cattivissima Lotte Legna, la famosa interprete di Kurt Weill, nonché moglie, che ormai anziana in 007, Una Russia con amore, che cosa tenta di fare? Tenta addirittura di uccidere James Bond con un paio di calzature metagalattiche, con la lama che esce, da sì, cui esce proprio una lama che tenta di intercettare i piedi, e cioè l'andatura del più celebre dei 007, cioè Sean Connery, ma viene uccisa appunto da Daniela Bianchi nel ruolo di una spia russa innamorata perdutamente di James Bond, col quale nelle ultime scene del film ha un interludio, diciamo così, a Venezia addirittura. Sì. Senti Enrico, è vero questo, che le Bond Girl poi non sono diventate delle attrici famose, però molte, vedendo Ursula Andress, nella loro carriera hanno sempre desiderato di diventare una Bond Girl. Perché in realtà è vero che poi non hanno continuato, non sono diventate famose per altri film. C'è un motivo, secondo te? Perché il personaggio è così, si lega così tanto, è talmente forte il personaggio nel film che poi cancella anche gli eventuali ruoli futuri? Ma secondo me è vero, semmai il contrario, è talmente forte il personaggio proprio di James Bond, sì, soprattutto nei primi film, legati alla presenza indiscutibile del più famoso della serie e probabilmente, lasciatemelo dire, anche del più scattante, del più atletico, del più bravo, che è stato Sean Connery. E quindi apparire a fianco di Sean Connery come lo straordinario oggetto del desiderio ha poi spinto i produttori a cercare invano un equivalente per le attrici che avevano interpretato questo ruolo. Alcune come Daniela Bianchi sono sopravvissute nel nostro immaginario, ma anche nell'immagine filmica di Cinecittà, interpretando dei film modesti, ma che in qualche modo rivaleggiavano con il grande exploit di Agente 007 dalla Russia con amore. Non c'è mai stata però un'attrice famosissima, già famosa per altri ruoli, che abbia deciso di interpretare o di figurare come Bond Girl. Ricordiamoci che in Operazione Tuono fu scelta sì Claudine Auger, ma dopo il rifiuto di tre grandi simboli del sesso dell'epoca come Raquel Welch, Judy Christie, Faye Dunaway, tutte attrici che furono prese in considerazione ma che educatamente rifiutarono di fare da spalla proprio a James Bond e a Sean Connery. Quindi gli unici invece che ebbero una grande popolarità furono gli uomini dello Spectre, non so, il nostro Adolfo Celi, sì, in Operazione Tuono, Gert Fröbe, l'attore tedesco che interpretò il ruolo di Goldfinger e che poi fu anche scelto da Luchino Visconti in Ludwig come il confessore di Helmut Berger. Sì, è vero, la Bond Girl era diventato proprio un simbolo, un class symbol per un'attrice poco nota di figurare accanto a James Bond, ma non fu poi sfruttata, data anche la popolarità enorme del ruolo di Bond Girl, e questo impedì alle attrici di avere una personalità autonoma anche quando l'avevano, o di essere considerate come tali, finirono in film minori o conclusero la loro carriera in show o in film televisivi o qualche volta anche in teatro a Londra. Forse la più nota in un certo senso, finché durò il grande successo del film anche delle sue riproposte, fu Honor Blackman, la famosa Pussy Galore del terzo film. Grazie Enrico, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica anche a te, grazie a voi, a presto. Andrea, però devo fare qualche piccola obiezione. Come no? Per esempio Diana Rigg, che lavorò con Lazenby al servizio segreto di sua maestà, era famosissima in Inghilterra e in America per la serie TV Agente Speciale, e poi anche lei, come Honor Blackman, ha continuato la sua avventura soprattutto in teatro, ma poi c'è Carol Bouquet, che lavorò in Solo per i tuoi occhi con Roger Moore, che veniva da Louis Buñuel. Nessuno ha citato Grace Jones, per esempio, che è una bongora e una cattiva. Era tra l'altro una cantante già ben nota e consolidata, ma poi c'è Halle Berry, che ha vinto un Oscar durante le riprese del film Die Another Day, La morte può attendere. Quindi questo mito della Bond Girl che poi svanisce non è poi così vero. Forse era più vero negli anni 60, ma perché, come nel caso di Daniela Bianchi, talvolta si sposavano con un industriale e lasciavano il mondo del cinema. Senti, tu che sei anche un collezionista di gadget legati al personaggio. Confesso tutto. Che cosa compri ancora e cosa hai comprato? Quali sono le cose alle quali ti piace? Beh, intanto varie collezioni di automobiline, di modellini. Di B5 o anche altre? La DB5, ma anche altre. In realtà il numero di modellini usciti in questi ultimi 20-30 anni, raccogliendo o ricostruendo tutte le varie collezioni che erano uscite in mezzo secolo oramai per ogni film, il numero è spropositato. Credo che solo Edward, che sentiremo tra breve, sia riuscito a raccoglierle tutte. Io ho giusto qualche manciata di varie piccole collezioni di vari formati. Poi ho action figures e anche lì non le ho tutte. Action figures sono i personaggini, sono i personaggi così, sia dalle figurine in piombo sia quelle mobili in cui si può mettere la pistola piuttosto che il bicchiere di Martini, piuttosto che altri gadget in mano al personaggio. Allora, gli aggiornamenti sul traffico e poi c'è Edward Coffrin con noi. Il riposo del guerriero. C'è Edward Coffrini, ma un attimo, Edward, prima volevo leggere qualche sms e parlarne con Andrea Carlo Cappi, perché uno mi fa molto ridere. Dice: Daniel Craig è un Van Damme, altro che Sean Connery. Beh, diciamo che ha ancora un po' di strada da fare per raffinare la sua recitazione, che è comunque meglio di quella del vecchio caro Jean-Claude, ma del resto anche Sean Connery non era ancora Sean Connery quando ha cominciato a fare. E l'abbiamo detto che era un disastro all'inizio, è stato... Sì, ma grazie alla scuola del regista Terence Young è poi diventato il Connery che noi conosciamo, che è un grandissimo attore. Ecco, li ho visti tutti e continuo a rivederli, hanno accompagnato tutta la mia crescita, scrive qualcuno, se non firmato in un messaggio. E poi c'è Carmen che fa degli appunti delle cose che a lei sono piaciute e si ricorda: la pistola, dalla Beretta alla Walter PPK. E poi Bond beve anche sake. È vero, si vive solo due volte, lo beve alla temperatura di 37 gradi mi pare che siano 47. Ah, 47, va bene, sì, è leggermente superiore alla temperatura corporea. Insomma, troppe cose che riguardano un personaggio che poi non esiste, è quello che ho fatto. Edward Coffrini dell'Orto, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Ciao, buongiorno, Capri. Ammiraglio. Ecco, sì, ammiraglio perché, allora, è proprietario dell'hotel Admiral a Milano, è un hotel dedicato a 007 perché ci sono le teche con tutti i gadget. Ma c'è anche di più. Io ho visto solo quelle, purtroppo. Cosa c'è di più, Edward, nell'albergo? Beh. Allora direi che iniziamo come da copione. Pronto, pronto, Cappi, sei in casa, ci sei? Questa è la nostra tipica, come lui lascia la segreteria telefonica per non essere disturbato mentre crea. Se siete due pazzi, ecco, sì. Che sono in missione, veloce. No, Cappi, ci sei? Pronto. Quindi, è stato ho scritto anche un racconto su queste cose che uscirà prossimamente sulla nostra newsletter. Il nostro inizio è questo. Beh, l'Admiral, il mio albergo di Milano di famiglia, oltre a 6.000 oggetti esposti tra la hall, le sale congressi, addirittura ho fatto il parcheggio, che quello è un capolavoro, perché la gente arriva e dice: scusi, posso parcheggiare la macchina? Prego, vado da Ursula Andres. Questo mi guarda con occhi pallati e quando poi scende vede che c'è il posto con la mega gigantografia di Ursula Andres, poi a seconda dei personaggi, Squalo, i vari Bond, quindi è una roba che lascia un po' così perplessi, ma vedo che poi tutti salgono e cominciano a parlarne in modo piacevole. Da lì mi è anche venuta l'idea iniziale di fare due suite, una Goldfinger e una Diamonds Are Forever, e è stato un successo pazzesco perché da un gioco tutti me le chiedevano in circa, ma neanche un anno, abbiamo fatto 13 servizi fotografici di moda o comunque tra varie cui uno testate, che ho fatto tra io. Cui uno di Cappi, esatto, per la promozione del suo ultimo capolavoro con Nightshade, e quindi direi che è stata un'idea così, e adesso veramente le camere sono diventate 20 a tema Bond e sono le più richieste. Quando arriva il cliente che chiede l'upgrade o gli viene proposto un upgrade, vanno tutti nelle camere, anziché nelle classiche, vanno in quelle Bond, perché Bond fa comunque sognare tutti. Beh, uno si immagina di essere uno degli attori, o quantomeno proprio il personaggio in quella camera. Senti, Edward, tu sei anche presidente del James Bond Club Italia. Sì, co-presidente, pare Edward comunque. Edward, scusami, all'italiana. E il club si chiama 007 Admiral Club. Ecco. E che quel signore lì di fianco a te è il co-presidente, l'abbiamo fondato insieme nel 99 dopo aver vissuto uno di fronte all'altro senza saperlo per anni in una via di Milano. Ci siamo conosciuti per caso alla Libreria del Giallo, all'epoca monumento nazionale gestito dalla Tecla d'Ozio, che purtroppo è stata chiusa per motivi di non supporto dei nostri brillanti governanti, però insomma siamo rimasti orfani del negozio, ma noi abbiamo da lì deciso comunque di partire, di fondare questo club che annovera 350 soci, è stato il primo in Italia, con personaggi del mondo della politica, attori, cantanti, scrittori. C'è anche una certa Barbara Broccoli tra i soci. Sì, una signorina che ha ereditato un giocattolo che non funziona molto bene, però insomma diciamo che tra i vari associati c'è di tutto di più, ecco, per cui è molto, da un punto di vista così è molto divertente, anche se curare e scrivere la nostra rivista Quarterdeck è abbastanza impegnativo, tant'è che ne esce una ogni tantissimo, diciamo una ogni film, per cui però insomma è un gioco. Beh, con l'ultimo avete avuto un po' di tempo per farlo, infatti forse siamo arrivati a due o tre numeri nell'intervallo. Qui, Edward, parlaci della tua collezione invece, dei pezzi ai quali ti di più. Sì. Beh, adesso si è arricchita di due pezzi clamorosi, perché l'altra sera a Roma, la prima, sono riuscito ad avere l'autografo di Daniel Craig, che mi ha firmato la copertina di Quarterdeck, che è appunto il nome della rivista del club, la nuova copertina, per cui il nuovo numero verrà con la copertina già autografata da Daniel Craig, e l'autografo di Sam Mendes sulla copertina della cartella stampa di Skyfall, quindi già questo è una cosa notevole. Poi i pezzi in collezione, beh, 6.000 sono tantini, quindi adesso devo scriverli tutti. No, beh, certo, però qualcosa. Quante ore abbiamo in trasmissione? No. Adesso verremo a vederli in albergo, insomma è possibile entrare per andare in a vederla. Via Domodossola 16. Ma sono svariati. Prima avete parlato delle Bond Girl, sì. E Cappi giustamente ha sottolineato l'importanza di mia moglie, cioè Tracy, che abbiamo la vetrina con l'abito di Tracy, l'abito di Tracy, la replica esatta del vestito di Tracy, cioè quando mi sono sposato mia moglie si è presentata all'altare così, e io ci ho messo quei due o tre giorni a capire che era l'abito di Tracy, perché ero un po' emozionato, però adesso fa bella mostra di sé. Ecco, scusami Edward, intervenendo per questo, ma si è sposato James Bond in un film? Ecco, bravo, sposato. L'altra cosa è che esatto, non è, cioè Cappi accennato, però Bond si sposa con Emma Peel, visto che all'epoca era famosa come Emma Peel, Diana Riga, chiaramente, ed è una cosa storica. Poi cioè, purtroppo rimane vedovo dopo 20 minuti, però diciamo che è stato un momento pazzesco. E questo film, l'ultimo Skyfall, mi ricorda molto come tipologia di film, dialoghi, aspetto familiare, affettivo, il film Al servizio del suo messaggio, quello del 69, che è veramente stato una svolta dal punto di vista dei dialoghi, dal punto di vista cinematografico dell'epoca di Bond. Per cui e questo film, Skyfall, lo ricalca molto. Altre due donne che non sono state citate sono la Murino, l'ultima Bond girl italiana, e Luciana Paluzzi, cliente dell'Hotel Ardino, chiaramente ai tempi, che anche lei si è ritirata, probabilmente non ha fatto carriera, perché dopo essersi sposata aveva come testimone di nozze un certo Terence Young, che è stato insieme a Platini, Michel, e a questo Mendes qua, che deve essere un nuovo regista, ma credo che sia molto bravo. Deve aver già fatto qualche filmino amatoriale con la videocamera, però devo dire che sono tre nomi sicuramente, vabbè, Platini non c'entra, ma sono due nomi, il primo e l'ultimo, veramente, che hanno dato un forte risalto al personaggio. Quest'ultimo addirittura, secondo me, è riuscito a far salire di tono anche le prime due pellicole di Craig, che già GoldenEye, dove ovviamente la più bella di tutti i tempi, visto che io facevo la comparsa nel ruolo del dottore, Casino Royale. Casino Royale, sì. Bravo Cappi, volevo vedere se eri attento, no, in realtà quel film non mi si vede assolutamente, però ero nel... Però sappiamo che Edward è presente. Esatto, una macchia bianca che cammina, ma a parte gli scherzi è stato veramente un film innovativo, era un Bond Beginning, Casino Royale, alla terza remake, perché Casino Royale ha sotto una storia pazzesca a livello di diritti d'autore, quasi quanto quella di Thunderball, che non so se ne avete già parlato, ma diciamo al terzo remake hanno fatto qualcosa di veramente importante, cioè Bond Beginning, in attesa di avere la licenza di uccidere. Quindi ecco, con Skyfall, sì, con Skyfall, scusami, sì, si riabilita, cioè, si alza ulteriormente di tono, come dicevano i primi due film, cioè Casino Royale e Quantum. Ecco Edward, per chiudere ti do 30 secondi per dirmi, visto che sei preparatissimo, potresti parlare per ore ovviamente sul personaggio, ma qual è la caratteristica che ami di più di 007? Beh, non lo Scegline so. Una. Allora, ti dico, visto che mi chiamo Dell'Orto di cognome, le auto. Le auto sono le tre macchine di Bond, sono la Lotus, la BMW e ovviamente la Aston Martin. Dico prima la Lotus perché la macchina subacquea che ha fatto sognare milioni di persone aveva un vestito elegante confezionato da tal Giugiaro, non so se l'avete mai sentito, che è tra l'altro anche lui il nostro cliente, e soprattutto il cuore pulsante, cioè il carburatore, era un Dell'Orto, e qui mio zio fece un'operazione di intelligence pazzesca per riuscire a diventare fornitore della Lotus. Poi ovviamente la BMW nell'epoca Brosnan fece un'importante comparsata di quattro pellicole, e poi siamo arrivati a ovviamente l'Aston Martin, che è partita con l'Aston Martin la storia, cioè il mito, quando uno dice l'Aston Martin c'è la macchina di James Bond, e ancora nell'ultimo film si vede la DB5 tornata fortemente protagonista, stranamente, forse per un product placement mancato, e mi sono come dice Q, sono ancora in pigiama, e io in pigiama posso fare più danni di voi in azione. Grazie Edward Cofrini Dell'Orto, ti devo salutare, c'è il GR, dopo insomma ti verremo a trovare in albergo e vedere la tua collezione. Ciao, grazie. Ciao. Edward, ciao. Alessandro Tedesco, la sentiremo dopo il GR, ovviamente anche Andrea Carlo Cappi, continuiamo a parlare del fascino della spia, ovvero 007. Il riposo del guerriero. Alle 11:06, riposo del guerriero su Radio 24, continua parlando dell'agente segreto più famoso del mondo, ovvero James Bond, una vita da spie. Andrea Carlo Cappi, tu vabbè, hai scritto anche tanti romanzi, ma ti sei mai sentito una spia nella vita? Ce l'hai fatto? Occasionalmente, però sì. Se vi dicessi quello che ho fatto, poi dovrei uccidervi. Ah beh, ok, meglio non saperlo, tu dici. Allora, per molti ascoltatori ovviamente James Bond è un mito, per qualcuno dice che Sean Connery lo stiamo troppo sopravvalutando. No, secondo me è un grandissimo attore. Certo, ha fatto dei passi da gigante proprio intanto che lavorava a James Bond, tant'è che poi è stato adottato per diversi anni da Sidney Lumet come attore di riferimento. La collina del disonore... riflessi in uno specchio oscuro, tutte grandi prove di recitazione che sono state più o meno contemporanee ai tentativi di fuga di Sean Connery dalla serie di James Bond. Luigi scrive, sì, però il gatto di numero uno della Spettre come si chiamava? Il numero uno si chiamava Blofeld e credo che non avesse tempo di dare un nome al gatto, allora, però gli ha dato un collarino in diamanti, quindi un gatto un investimento. Meglio che niente, parliamo di automobili, Andrea Carlo Cappi, allora, mi abbiamo citate prima, grazie a Edward che le ha citate, la tua preferita? La mia preferita è la DB5, la Aston Martin DB5, che ovviamente non posseggo se non in versione modellini di vari formati e neanche di modellini pregiatissimi, proprio i modellini giocattolo, però con i piccoli effettini che si possono utilizzare, tipo il seggiolino iniettabile, sì, che spara famoso. Fuori il tutti il lo vorremmo avere nella macchina. Nella realtà, sì, beh, sì, tutti vorremmo avere, anche specialmente in coda nel traffico, le mitragliatrici che escono dai fari. O i rostri, eccetera. Per cui sì, sono tutti strumenti che potrebbero essere molto utili oggigiorno nel traffico. Il vantaggio della DB5 è che risponde a un concetto un po' antiquato, se vogliamo, però ha un suo fascino notevole. Certamente le Aston Martin di oggi sono più tecnologiche, più raffinate, però il vecchio motore, il vecchio ruggito del vecchio motore della DB5, che abbiamo il piacere di risentire anche in Skyfall, ha il suo fascino. È un po' come, per parlare di un altro personaggio legato a una certa automobile della stessa epoca, la Jaguar di Diabolik. Alessandra Tedesco, ciao, buona domenica Alessandra. Ciao a tutti, buona domenica a voi. Fra le altre cose, anche conduttrice del Cacciatore di Libri, non dal sabato alle 6.45 e alle 21.05. Parliamo del successo letterario di 007, Alessandra. Il successo letterario, dobbiamo dirlo subito, è sicuramente inferiore al successo cinematografico. Pensate infatti che quando Ian Fleming scrisse il primo romanzo con protagonista 007, che era Casino Royale, ed era il 1952, il romanzo non ebbe poi tutto questo grande successo. Ma solo la prima edizione, poi dopo si è rifatto. Solo la prima edizione, però diciamo che nel momento in cui sono usciti i film, tutti hanno iniziato a conoscere i romanzi di Ian Fleming. Si calcola così, un calcolo approssimativo, che Ian Fleming, tradotto quasi in tutto il mondo, abbia venduto 100 milioni di copie, che è sicuramente un numero insomma elevatissimo. Però pensate per esempio che il romanzo italiano più venduto, Il nome della rosa di Umberto Eco, ha venduto 30 milioni di copie, quindi circa un terzo con un solo libro. Questo vuol dire che il successo di 007 è soprattutto cinematografico, ma è anche fatto di libri scritti da altri autori, cioè non firmati direttamente da Ian Fleming, perché dopo la morte di Fleming nel 64 il personaggio di 007 è stato raccontato da tantissimi altri scrittori, ovviamente con il consenso della casa editrice che pubblicava Fleming. Per esempio, non so, l'anno scorso anche l'americano Jeffrey Deaver, quello che aveva scritto Il collezionista di ossa, si è cimentato in una storia su James Bond, e il prossimo 007 sarà firmato da un altro inglese invece, che è William Boyd, e uscirà nel 2013. In questo caso il romanzo è ambientato negli anni 60. Altra curiosità che riguarda invece Fleming come scrittore è che lui ha scritto appunto alla fine solo 14 romanzi, che non è un numero elevatissimo su 007, sono 12 romanzi e 2 raccolte di racconti, e lui, non so se l'avete già detto, ne scriveva sostanzialmente uno all'anno, si rifugiava in questo suo buon ritiro, così possiamo chiamarlo, in Giamaica da gennaio a marzo, e tutti gli anni faceva uscire un romanzo. E tra l'altro, testimonianza che c'è una, come dire, 007 mania anche a livello dei romanzi di Fleming, da quest'anno la Delphi, che è sicuramente casa editrice molto prestigiosa, ha iniziato a ripubblicare i titoli di Fleming. A luglio è uscito il primo Casino Royale, e adesso proprio il 7 novembre uscirà il secondo, che Vivi e lascia morire. La cosa bella e interessante è che, oltre ovviamente a esserci il testo originale di Ian Fleming tradotto, ci sono le copertine che richiamano un po' le copertine originali dei libri di Fleming. Alessandra Tedesco, per chiudere, qual è il tuo preferito tra tutti gli attori che hanno interpretato il personaggio? Oddio, io sono un po' antica, lo dirò. Lo so, a differenza di Maria Rosa Mancuso, che è veramente una giornalista eccezionale, io apprezzo tantissimo, io non dirò Daniel Craig, ma dico Sean Connery. Ecco, vabbè, sei antica. D'accordo con molte altre ascoltatrici. Grazie Alessandra, ciao, buona Grazie domenica. A voi, buona giornata. Buona ciao, domenica. Andrea Carlo Capi, siamo quasi in chiusura per quanto riguarda la puntata, cioè il momento dedicato a James Bond. Stai per premere il pulsante del seggiolino iniettabile. No, no, che vorrei mi sparerà mai. Fuori dallo studio. Abbiamo tante altre cose da raccontare. Io volevo dire due parole sul famoso film Passato inosservato, quello di quella, dell'attore sconosciuto, di cui mai non George ricorderò. Lazenby. Sì, non ricorderò mai il nome, quindi me l'hai detto 100 volte e io continuo a dimenticarmelo. Però tu dicevi è un gran bel film. È un gran bel film perché è stato costruito con molta fedeltà su uno dei romanzi più belli e significativi della saga di Bond, cioè il raro caso in cui Bond si innamora ancora di più del solito, che è una cosa che per lui è molto rischiosa perché sa che non porta molta fortuna con il lavoro che fa alle donne che gli stanno vicino. Ma in questo caso viene trascinato all'interno di una storia d'amore quasi suo malgrado, perché salva dal suicidio una bellissima ragazza e il padre di costei gli impone di continuare questo magnifico lavoro di salvataggio dell'equilibrio psichico di questa giovane donna. Se non che il padre di lei è il capo dell'Unione Corsa, nota organizzazione internazionale malavitosa con base in Corsica. E quindi, diciamo, è una persona che è abituato a essere obbedito quando dice qualcosa. Però offre a Bond anche un'altra possibilità, quella di aiutarlo, se lui sposerà sua figlia Teresa, detta Tracy, di aiutarlo a dare la caccia al temibile capo della Spectre, cioè Ernest Stavro Blofeld. E quindi in questa comunione di interessi e di obiettivi, Bond si lega a Teresa, alias Tracy, e dannazione si innamora quasi contro la sua volontà, rimane così coinvolto emotivamente che quando alla fine il padre di lei preme per il matrimonio, incredibilmente Bond accetta l'incarico che potrebbe essere il più rischioso della sua carriera. Se non che ci sono alcuni conti in sospeso con la Spectre e il matrimonio appunto non è di lunga durata e non certo per colpa di James Bond, il che nel film porterà a una vendetta nei confronti di Blofeld dall'inizio della pellicola successiva. Nei romanzi in realtà è molto più complesso perché porta Bond, che come abbiamo detto è molto più tormentato a livello letterario, porta Bond a una crisi depressiva in cui perde la sicurezza, perde, diciamo così, il suo smalto e ci metterà un po' a recuperarlo. Senti, e invece per chiudere, visto che tu hai tradotto insomma quasi tutti i romanzi che sono stati scritti dopo Fleming, beh, non proprio tutti, beh, moltissimi, l'elenco è veramente lungo, ce n'è uno che vuoi consigliare perché ti ha particolarmente catturato? Ne consiglierei parecchi, sì, direi Raymond Benson, che adesso temo non si trovino più in commercio, ma quello che consiglierei, se si riesce a trovare in una delle due edizioni precedenti, è Tempo di uccidere, che è un bellissimo thriller in cui Bond va in una missione quasi senza ritorno perché deve recuperare alcuni progetti rubati che sono però precipitati a bordo di un aereo in cima a una delle montagne più alte del mondo. Si crea una corsa per il recupero di questi progetti e ovviamente Bond deve sopravvivere e non è una missione facile. Un bellissimo thriller che in più ha dentro un ottimo James Bond. Una curiosità, io ho anche recuperato insieme a Edward un racconto dimenticato di 007, perché non era uscito nelle due raccolte storiche di Fleming, ma era uscito all'interno di un libro di memorie di viaggio di Fleming che si chiamava Thrilling Cities. E persino gli editori e gli eredi di Fleming si erano dimenticati di questo racconto chiamato 007 a New York. Nel 99 io ne ho presi i diritti e Edward ne ha recuperato il testo, li ho pubblicato poi nel 2000 in una rivista, e questa mossa ha fatto sì che in Inghilterra si accorgessero che avevano questo piccolo tesoro dimenticato, tant'è che poi nel 2008, quando è stata fatta un'edizione in volume unico di tutti i racconti di Fleming, finalmente è apparso insieme agli altri anche questo racconto che abbiamo riscoperto Edward e io, di fatto. Grazie Andrea Carlo Capi. Per capire tutta la tua vita e le cose che hai fatto ci vuole James Bond, per forza di cose. Sì, oppure la mia pagina Wikipedia, che è abbastanza aggiornata. Che è molto ricca, infatti. Grazie davvero, ci vedremo presto e sentiremo presto ancora, perché di cose da raccontare ne hai davvero tante. Gli aggiornamenti sul traffico e poi parleremo di un videogioco ovviamente legato a Skyfall e soprattutto alla storia, la leggenda di 007. Il riposo del guerriero. Video game. Video game. Una leggenda non nasce dal nulla, è forgiata, messa alla prova e spinta al limite. Sto parlando del mito di 007 e del nuovo gioco 007 Legends, disponibile per PC e tutte le console. Bond to MI6. I'm going to investigate. Proprio per festeggiare i 50 anni dalla nascita del personaggio ideato da Ian Fleming, il videogioco ripercorre con una serie di flashback le scene più emozionanti e famose di altrettanti film dedicati all'agente segreto inglese. Moonraker Operazione Spazio, Al servizio segreto di Sua Maestà, Licenza di uccidere, La morte può attendere e ovviamente l'immancabile Goldfinger. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Forse i fan della saga non saranno entusiasti nel vedere bloccato su una lastra d'oro tagliata in due dal raggio laser Daniel Craig al posto di Sean Connery, ma nel videogioco tutti i flashback hanno come protagonista uno 007 con la faccia dell'attore britannico. I need an update. I want to know everything about Operation Grand Slam. Nell'elenco dei film avrete notato che manca Skyfall, ma sarà disponibile dal 9 novembre come capitolo gratuito aggiuntivo al gioco. In 007 Legends, la licenza di uccidere dell'agente segreto più famoso del mondo è l'arma fondamentale per proseguire nella storia, ma la cosa più interessante resta la possibilità di giocare le scene più avvincenti dei film che ci hanno fatto sognare, scene che comunque non sono collegate fra loro, ma perfette se prese come singole missioni. Mr. Bond, you have interfered with my plans for the last time. 007 Legends è un titolo che piacerà molto a chi vuole svagarsi davanti a un videogioco senza impegnarsi troppo, per godersi però scene d'azioni memorabili, come ci si aspetterebbe dai film che lo vedono come protagonista. Game over. Freezing cold in 89 years old. Senti chi parla. Francesca Dragotto, ciao, buona domenica, ben ritrovata. Buongiorno, buona domenica a tutti. Oggi la voce che sentiremo è una voce che è partita non proprio con una voce, ma con un pianto. Beh sì, parleremo degli impasti della Fornera, parleremo infatti dei prodotti di un fornaio, questo è l'etimo del cognome del protagonista di questa puntata, della protagonista, la cui forma, nello specifico una variante dialettale di fornaio, lascia trapelare un'origine settentrionale. Parlo ovviamente della ministra Fornero, accademica prestata alla politica, le cui scelte linguistiche e comunicative finiscono spesso per animare accesi dibattiti in grado di coinvolgere un numero incredibilmente elevato di italiani, l'abbiamo visto questa settimana. E per dare forma a questi impasti prenderemo in esame alcuni passaggi di interviste o conferenze stampa che sono diventati veri e propri tormentoni. Aspetta, prima del primo io ho una curiosità, perché visto che tu dici la ministra, perché l'ha sottolineato, allora io avevo questa curiosità prima, e il cognome deriva da fornaio, ma se il fornaio è donna è la fornaia o resta il fornaio? No, è la fornaia dal punto di vista linguistico, col fatto che la maggior parte, la stragrande parte dei fornai sono uomini, si è sempre detto il fornaio, ma qui apriamo una questione sul genere. Tu lo sai che io ho sempre detto ricercatore, perché non avverto, non mi sento discriminata se non mi chiamano con il suffisso al femminile, ma questo alimenta negli ultimi anni ormai un vespaio di polemiche continue. Allora, per evitare le solite cose, mi sono adeguata anche con un po' di polemica nel dire sempre ministra, dirò sempre ministra nel corso dell'intervento, ma che sia una cosa veramente attuale te lo dimostra qualunque tipo di servizio televisivo dove il giornalista non riesce a mantenere costante l'uso del femminile. Quindi passi dal ministro Fornero, la ministra Fornero, a Fornero, a la Fornero. Significa che è ancora un qualcosa che nel sistema linguistico non è assestato. Vedremo un po' con il tempo cosa accadrà, e adesso appunto partiamo con la prima voce, eccola qui. Allora, nessuna riforma pensionistica da, nell'anno successivo alla sua introduzione o nell'anno della sua introduzione, risparmi, perché il sistema pensionistico è un meccanismo lungo tra le generazioni, e allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un secondo. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Beh, era scoppiata a piangere, quindi non riusciva più a parlare. Anche su questo scoppiare a piangere dovremmo dire delle cose. Volto segnato, fraseggio molto controllato, costantemente accompagnato dai linguaggi del corpo, in particolare dal movimento delle mani. La comunicazione della ministra si caratterizza per una ridondanza però efficace nella costruzione dell'effetto comunicativo. Per ridondanza intendo il fatto che gli stessi contenuti vengono affidati a linguaggi diversi, non ultimi i linguaggi del corpo. L'apice del discorso, è facile immaginarlo, si realizza quando la lingua si spezza, non consentendo alla ministra di pronunciare la parola sacrificio. Il silenzio forneriano è una sorta di cavallo di Troia che consente di penetrare il muro battesimo di folla, anzi qui possiamo dire il battesimo di massa della ministra, e appunto è un elemento che permette di rompere il ghiaccio, era una delle prime uscite pubbliche, la prima su cui i riflettori erano così tanto accesi, e funge da ponte perfetto tra il riferimento alla condizione psicologica che ha condotto alla riforma e la compartecipazione al sacrificio patita anche personalmente dal suo principale estensore, appunto dalla ministra stessa. La lingua che si spezza riesce assai più di quanto avrebbe potuto un intero discorso. Il secondo passaggio che considereremo, non meno noto, è quello della famigerata paccata di miliardi. E perché noi dovremmo mettere lì a dire una paccata di miliardi e dire poi voi diteci di sì? No, non si fa così. È quello del negoziato sulla riforma del lavoro giunto ad un punto cruciale. Prevedibili sono reazioni politiche, reazioni dell'opinione pubblica ai contenuti della dichiarazione della ministra, meno prevedibili invece considerazioni su larghissima scala di stampo linguistico e ideologico, dove con ideologico mi riferisco non già a questioni di politica ma a questioni di stereotipi di genere. Paccata, quantificatore indefinito, formato sul modello che so di manciata, vagonata, cucchiaiata, paccata che in alcune varietà dell'italiano, tra cui quella piemontese, è usato per intendere un sacco di, riprende pacco e non pacca, con pacca naturalmente avremmo inteso il colpo dato con la mano, trasformandolo in un qualcosa di più immaginifico, in qualcosa che si arricchisce delle suggestioni evocate ora dall'idea della sola, quindi della fregatura, fregatura in bocca romana, ora dall'idea del pomicio spinto, anch'esso patinato di romanità, ecco perché l'uso di paccata ha alimentato così tanti dibattiti in seno alla rete. Come ho anticipato, però, nel caso della paccata forneriana, l'elemento più interessante è costituito da quell'insieme di considerazioni su stereotipi femminili, da molti richiamati per giustificare, quasi che ce ne fosse necessità, quello che per la maggior parte degli italiani suonava come un neologismo. In questo uso c'è chi intravede la continuazione di una sorta di cammino che è iniziato proprio con la richiesta di uso di ministra, al posto di ministro. Quindi c'è chi in paccata ha visto una spia di un nuovo linguaggio che ha suscitato così tante polemiche solo perché in bocca ad una donna. Come somma di tutto quello che ho detto, è interessante constatare che la lingua di Fornero tiene banco al punto di riuscire a stornare, anche se solo parzialmente, l'attenzione dai contenuti più profondi del discorso. Personalmente in paccata vedo un'interferenza tra registri, quindi un'interferenza del registro più popolare uscita dalla bocca della ministra perché è sentita come forma più naturale e più immediata per la trasmissione di un contenuto che invece era del tutto chiaro. No accordo, no parti, anzi no paccata di miliardi. E ora passiamo all'attualità. I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi. Cioè, io lo dicevo sempre ai miei studenti, prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno. E lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito. Choosy. Choosy, aggettivo usato per significare chi è difficile da accontentare, chi è esigente riguardo qualcosa. Choosy potrebbe essere reso in italiano con incontentabile, appunto difficile, pignolo, ma anche nel linguaggio colloquiale con schizzinoso. Però appunto emerge dalle diverse possibilità di resa di questo termine l'ambiguità a cui può andare soggetto il pensiero forneriano, che nelle intenzioni, stando solo alla lingua, non necessariamente avrebbe dovuto essere interpretato in senso negativo, in senso peggiorativo. Non accontentarsi delle cose, essere esigenti, cercare di migliorare la propria posizione in sé non contiene una valenza peggiorativa. Volendo giocare con le parole, potremmo tradurre le intenzioni della ministra in una battuta. Cari giovani, accettate il primo lavoro ad occhi chiusi. Battuta che circola tra tante, vi assicuro che ne stanno circolando veramente tante in rete. Come nei precedenti casi, ci dobbiamo chiedere, si tratta di comunicazione intenzionale o di un'ingenuità? È una ricerca di eufemismo? oppure al contrario si tratta di ricercatezza lessicale, oppure è una spia di snobismo involontario? Certo è che le uscite della ministra non lasciano dietro di sé il silenzio e dunque, per finire riecheggiando un tormentone pubblicitario, Fornero, what else? Il riposo del guerriero. Tra poco vi ricordo che si gioca con Miro in 24 minuti per voi la possibilità di portare a casa il biglietto d'ingresso della mostra Genova Palazzo Ducale fino al 7 aprile 2013 e anche il bellissimo catalogo della mostra. E per riuscire ad avere queste cose basta cercare di capire a quale quadro si può legare la canzone che vi farò ascoltare, e quindi molti di voi, 5 in particolare, oggi potranno portarsi a casa biglietto e catalogo. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24. Prima di giocare però volevo ritornare al mito di 007, perché tra le bevande preferite dall'agente segreto c'è ovviamente lo champagne, che per moltissimi anni continua a essere il Bollinger, e c'è un'edizione speciale da collezione, si chiama Bollinger 002 For 007, ideata per celebrare il 50° anniversario proprio dei romanzi. E la cosa curiosa è che la bottiglia di champagne è contenuta in questo astuccio che si può aprire soltanto con un codice segreto. Il codice segreto di 3 cifre e non ve lo svelo, ma immagino che già possiate capire quale sia. Comunque la confezione, devo dire, è veramente molto bella e ideale per gli appassionati sia di champagne e sia per chi invece ama il gadget legati a 007. E a proposito di champagne c'è il nostro Davide Paolini. Crema Novi, un'autentica specialità, con il 45% di superbe nocciole delle nostre colline. Vi presenta il gastronauta. Sì, buona domenica a tutti, anche se la temperatura, la pioggia, insomma, non è più il tempo di qualche giornata fa. Quindi oggi è una giornata da casa dove si può anche magari centellinare una buona bottiglia di vino. E a proposito di James Bond, io penso subito, quando sento questo nome, champagne. Champagne perché è un po' passato alla storia in Agente 007, missione Goldfinger, Bond quando ordina il Dom Perignon del 1955. Ebbene, un film di tanti anni fa, quindi sicuramente da allora sono nate tantissime altre annate. Lui preferiva il 1955, chissà se fosse stato girato magari oggi e il nuovo James Bond se preferirebbe un'altra annata, anche perché le annate di Dom Perignon sono davvero sempre straordinarie, a cominciare da Enotech Dom Perignon, una serie veramente di bottiglie, di etichette messe in vendita davvero una più straordinaria dell'altra. Ma dobbiamo ricordare anche che non solo Dom Perignon 1955 è diciamo il preferito da James Bond, ma in un altro film che è Agente 007, Bersaglio Mobile, addirittura sceglie il Bollinger dell'annata 1975. E con Bollinger c'è stato anche un seguito, perché poi è nato una speciale edizione dello champagne Bollinger 007, che addirittura fu distribuita in un contenitore d'acciaio a forma di proiettile che conteneva appunto una Magnum di Bollinger Grand Année 1999. Quindi diciamo la liaison James Bond con lo champagne è davvero molto ma molto stretta, e devo dire che ha scelto due ottimi champagne. Dom Perignon diciamo è sempre sulla cresta dell'onda, non esce tutti gli anni, e questa è una grande dimostrazione appunto di qualità, di scelta qualitativa. Però diciamo che gli champagne straordinari ci sono anche altri che si possono mettere su questa linea e potrebbero essere davvero così serviti o utilizzati da questo 007 che va a scegliere sempre le cose migliori, le auto appunto, le donne e tante altre cose, quindi auto, donne e champagne sicuramente stanno molto bene assieme. Allora io vorrei ricordare che c'è Salon, che è un grandissimo champagne, e poi c'è Krug Clos de Mesnil, che è un altro straordinario prodotto. Quindi diciamo che le discussioni tra i critici, tra i degustatori sugli champagne sono tante. Poi ci sono tantissimi piccoli produttori ora dello champagne, magari un tempo solamente viticoltori, che hanno cominciato a produrre in proprio, e ci sono tante piccole etichette. Anzi, diciamo che la caccia sicuramente dei degustatori o dei gourmet molto particolari è appunto a queste piccole etichette che ogni tanto anche arrivano in Italia, sono portate da importatori, sono portate anche da ristoratori. C'è da dire che c'è anche un'ultima, come posso dire, un'ultima generazione di champagne che rientrano in quella linea dei cosiddetti naturali, cioè quelli che usano meno solfiti, e quindi qui ci sarà, diciamo, la grande diatriba dei prossimi anni: chi riuscirà a produrre grandi champagne con una riduzione dei solfiti. Quindi una guerra sicuramente tra produttori, vediamo chi vincerà, e magari, chissà, quello con meno solfiti, se sarà poi utilizzato sempre da 007 nelle prossime edizioni dei film. Vi auguro una buona domenica e ciao a tutti. Miro in 24 minuti. Pronti a farvi andare a vedere la mostra a Genova, Palazzo Ducale, fino al 27 aprile 2013, Miro, poesia e luce. Per voi il biglietto d'ingresso e il catalogo della mostra, ammesso però che riusciate a cercare di capire a quale opera di Miro è possibile associare la canzone che state per ascoltare. Lui cammina cantando, ride, gioca coi sassi, sogna che può volare, e tutto questo è poesia, poesia. Una traccia forse dimenticata di Riccardo Cocciante, ma che ricordo molto bene. Beh, il titolo della canzone è molto semplice, è poesia, lo ripete anche molte volte. Alessandra da Milano, ciao, buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao Alessandra. Allora, vabbè, cominciamo con te, penso col modo più facile in assoluto. Per te la possibilità di portare a casa sia il biglietto sia il bellissimo catalogo della mostra Miro, poesia e luce. Se riesci a dirmi il titolo dell'opera di Miro che può essere associato a questa canzone. Senti, io ho pensato a pittura poesia, il titolo di un'opera di un'opera, può essere legato a questa canzone. Guarda che è proprio la cosa più facile del è proprio facilissimo. Allora, nel 1925, cercando, ho trovato Painting Poem, che è diciamo l'associazione della poesia e della pittura su tela. Sì, però quella è l'associazione, ma io parlo di uno, le opere hanno un titolo e mi dovresti dire il titolo di quell'opera. Ma dillo, è facile, ce l'hai lì sulla punta della lingua. Poesia. Poesia. Era apposta facilissimo. Allora, il titolo dell'opera è poesia, esatto. Sì. Brava Alessandra, per te il biglietto d'ingresso alla mostra e il catalogo. Grazie, ciao a te, buona domenica. Ciao, grazie. Allora, Luisa da Firenze, preparati, perché per te c'è un altro catalogo e un altro biglietto, ammesso che tu riesca a capire il titolo della prossima opera di Miro. E anche questa, secondo me, è molto facile. Sentiamo la canzone. Senza fine trascini la nostra vita senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Una versione rivisitata di un grande classico della Vanoni, che è Senza fine. Luisa da Firenze, ciao, buona domenica. Buona domenica anche a te. Io mi ero preparata per quella precedente. Lo so, però adesso vediamo, vediamo, allora, aiutiamoci. Ecco. Allora, io direi sì. La mano. Ma perché hai voluto una risposta prima che io potessi aiutarti? Perché siccome ti stavo aiutando, la mano. Ho capito, volevo darti una mano io invece, non mi hai lasciato parlare, Luisa, hai dato una risposta. Cosa possiamo fare? Dobbiamo salutarci. Vabbè, riproverò, che devo dire. Brava. Non mi aiuti ora, visto No, non può, no, ormai devo aiutare Elisa che c'è dopo di te e mi dispiace. Sono un po' troppo illuente. Brava, brava, può essere un bel pregio. Grazie Luisa, ciao, buona domenica. Buongiorno. 800 24 00 24, c'è Elisa da Monza. Elisa. Eccoci qua. Allora, ciao a tutti. Ciao. Ma il problema è che anche con l'aiuto non so se ce la posso fare. Ma ce la puoi fare come? Perché questo, diciamo, titolo di opera di Miró in realtà è il titolo di tantissime opere di Miró. Proprio tante. Perché Miró, molte opere di Miró sono senza titolo. Senza titolo. Hai visto che non era così difficile, Elisa? No, non era per niente difficile, infatti il problema è che i titoli, da quello che ho potuto capire e trovare, sono pochi, e tra quei pochi nulla mi faceva pensare... Non sai come per me come è stato difficile, infatti, è vero, per questo motivo. Elisa, brava, comunque era senza titolo e quindi anche per te c'è il biglietto della mostra e il catalogo. Perfetto. Complimenti. Vi ciao. Ringrazio molto. A te, buona domenica. Si va avanti, si va avanti, ci sono altri cataloghi, altri biglietti, quindi preparati. Irene da Milano, che sarà la nostra prossima ascoltatrice, 800 24 00 24, aggiornamenti sul traffico e poi il terzo indizio per il terzo... quadro da indovinare. Miró in 24 minuti. Per voi la possibilità di andare a Genova Palazzo Ducale a vedere la mostra Miró Poesia e Luce, quindi il biglietto d'ingresso e il catalogo della mostra. Così se non riuscite ad andare a vederla, avete sempre il catalogo per ammirarla. Certo non è la stessa cosa, però. E, tra l'altro, i cataloghi sono sempre dei bellissimi libri da consultare, leggere, guardare. Questo in particolare è dedicato a Miró, è anche molto ricco di notizie che riguardano l'artista. Voi, per riuscire a portare a casa queste due cose, dovete cercare di capire quale opera è legata alla canzone che vi faccio ascoltare. Può essere un dipinto, può essere una scultura, nel caso di Miró. Attenzione quindi alla canzone che sto per proporvi. Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. Irene da Milano, ciao, buona domenica Irene. Ciao, buona domenica. Quante volte hai cantato questa canzone di Lucio Battisti? Penso tante. Sì, anche perché quando vai al karaoke che cosa canti? La canzone del sole di Lucio Battisti. Quando suoni la chitarra per la prima volta, cosa canti? La canzone del sole di Lucio Battisti, perché è la mi, re, mi, sono tre accordi. Ecco, quindi fai la mi, re, mi e hai fatto la canzone del sole tutto il pezzo, che non è neanche c'è neanche un cambiamento. E allora, quindi insomma la canzone la conosci bene Irene, magari conosci un po' meno bene Miró. Però grazie all'aiuto ovviamente della rete, degli amici eccetera, potresti dirmi a quale opera può essere associata questa canzone di Lucio Battisti, Irene? Sì, pensavo Donna. E no. Irene. Niente. E no, mi dispiace, sono rimasto un po' così, ero convinto lo sapessi. Ascolterai però la puntata fino alla fine, così almeno sì, scopri senz'altro. Brava. Ciao, grazie Irene, grazie, ciao. Ciao. Così si morde tipo le mani. Elisabetta da Genova. Elisabetta. Sì, ciao. Elisabetta, sei lì, a due passi da Palazzo Ducale, no, magari certo. No, perché è più lontano, però. E quindi io vorrei tanto darti il biglietto d'ingresso e anche il catalogo della mostra Miró Poesia sì. E Luce. Quale opera di Miró può essere legata alla canzone che abbiamo appena ascoltato? Ma vada tentativi, non sì. Lo so. Mare Nero. Non è Mare Nero. No, non è Mare Nero, Mi dispiace, Elisabetta. Grazie però, ciao. Grazie, è facile, anche perché l'amica di prima, Irene, ha veramente vi ha aiutati. Enrico da Roma, ciao, buona domenica, Enrico. Ciao, buongiorno. Guarda, io stavo un po' riflettendo, forse qualcosa legato a una ragazza con il sole. Quindi, Enrico, ci stiamo avvicinando, quindi dillo. Irene, quindi non è proprio una ragazza, è una... È una ragazza più grande, quindi è una... Una donna? Donna baciata dal sole, che il sole bacia i belli. Enrico, guarda, hai aggiunto troppa roba, è più semplice, hai aggiunto troppo. C'eri vicino, cosa devo fare? Salutarti? Proviamo. un ultimo tentativo, diciamo. Ma sì, la donna. È sbagliato comunque, però l'aveva detto Irene, donna, ma non è. Però tu hai detto, insomma, tu e Irene insieme avete dato la risposta giusta, ma nessuno dei due ha dato quella effettiva. Enrico, ciao, grazie, hai dato 6 risposte tutte sbagliate. Vabbè, ci riproverò la prossima volta, grazie. A te, Vincenza da Brescia. Vincenza. Sì, ci sono, buongiorno. Ciao, buongiorno Vincenza. Senti, mettiamo un po' in ordine queste cose. Guarda, okay. È facilissimo, il titolo sono solo due parole. Vai, dimmi. Purtroppo io pensavo 4 e donna davanti al sole. Hai aggiunto anche tu troppa roba. Troppa roba, non so. Per sai perché? Perché parliamo di un surrealista, per cui non è così, capito, donna davanti al sole che guarda, non so, le nuvole passare. Non è così, è più è immediato. Mi dispiace Vincenza, grazie. Grazie, buona giornata. Ciao, anche a te. Cristina da Milano, dammi la risposta, Cristina. Togli tutto, pulisci tutto e abbiamo la risposta. Vai, Donna al sole. Ma perché al sole? Non è appunto, no, non è donna al sole, no, perché infatti donna al sole cambia completamente, l'opera non è quella, no, è diverso. Woman in front of the sun, Eh no, ma non è quella l'opera, no, no, mi dispiace. Peccato. Peccato sì. Ciao Cristina, ciao. Roberto da Brescia. Abbassa la radio, Roberta, per cortesia, spegni la propria. Io sento, sì, grazie. Grazie, Roberta. Allora, è una scultura, vi aiuto. Sì. Quante parole sono, hai detto? Due parole. Donna sole. Donna sole, Bene. È una donna che al posto della testa c'è il sole. Questo è un po' il senso. Roberta, ti porti a casa il biglietto d'ingresso della mostra Miro Poesia e Luce e il catalogo della mostra. Ovviamente. Ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao. Prima di Ugo da Firenze c'è un altro quadro quadro o scultura, e nel caso di Miro, da indovinare. Più o meno come fa un piccione e mica come le persone che a causa dei particolari mandano per aria sogni e grandi amori. Camminerò come un piccione a piedi nudi sull'asfalto, chi guida crede che mi mette sotto, ma io con un salto all'ultimo momento volerò, ma non troppo. Eccolo qua Povia di Vorrei avere il becco. Questo è l'indizio che vi porta a pensare a un'opera di Miro. Ugo da Firenze, ciao Ugo. Provi a dare una risposta che abbia a che fare con questa canzone. Ma è difficile. È difficile. Allora facciamo così. Quante parole, Ugo? Sì. Non rispondermi, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie Ugo, ciao. Grazie Ugo, ti chiamiamo la settimana prossima. Questo sarà il primo indizio della settimana prossima, perché tornerà ovviamente Miro in 24 minuti. Grazie a James Bond che ci ha accompagnati per tutta la puntata, Giorgio De Luca in redazione, Nadia Zammitti in assistenza, Filippo Oreggi in regia, e a voi. Ci sentiamo domenica prossima. Buona settimana da Stefano Gallarini.